Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, morto un campionato se ne fa un altro che sta cominciando già a delinearsi attraverso arrivi e partenze ad un ritmo discretamente frenetico. Avete sentito anche nell'ultimo notiziario nostro pochi minuti fa, come avete letto sui giornali, che per esempio Kakà è ormai in pratica ormai un giocatore del Real Madrid. A Madrid scrivono addirittura che indosserà la maglia numero 5 lasciata libera da Cannavaro. La maglia numero 5 è stata indossata, se Kakà davvero la vestirà, sarà il terzo pallone d'oro consecutivo a indossare il numero 5, la camisetta bianca numero 5, perché prima di Cannavaro era stato Zidane a indossarla a Madrid. Quello che resta da capire, mi pare, sia la volontà, e cioè se è Kakà che vuole andare al Real Madrid o se è il Milan che lo vuole cedere. Il Corriere della Sera di oggi scrive, a firma di Alberto Costa, è la prima bandiera ceduta nella storia da parte del Milan, e poi precisa, tra il brasiliano e Berlusconi uno non ha detto la verità. Si tratta di vedere chi, anche se qualche sospetto comincia a farsi strada, insomma, diciamo ad affiorare. Vabbè, ma non è un buon motivo quello della fuga in avanti per mandare in archivio il campionato appena concluso senza almeno un bilancio, senza una chiosa d'autore, che affiderei dunque ad Alberto Bortolotti. Ad Alberto, buongiorno. Ciao Gigi e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Senti, io ho sott'occhio, perché alla fine quello che conta sono i numeri, e questo è molto banale dirlo, ma alla fine i numeri dicono più di quanto a prima vista non si direbbe. Allora, comincerei per esempio dai distacchi. L'Inter ha vinto con 10 punti di vantaggio su Juventus e Milan alla pari questo campionato, a differenza di quello scorso che aveva vinto all'ultima giornata con 3 punti, ma che durante l'ultima giornata di campionato, come ci ricordiamo, durante lo svolgimento stava addirittura perdendo. Eppure, nonostante questo vantaggio nettissimo sulle rivali, ha fatto un punto in meno dello scorso anno. Allora, più merito dell'Inter questa conferma o più demerito altrui di non averla saputa contrastare fino in fondo? Prima domanda. Beh, è chiaro che l'Inter dei meriti ne ha avuti, perché chi vince ne ha sempre, però mi sembrano preponderanti i demeriti della concorrenza, oppure diciamo l'inconsistenza dei concorrenti, dei quali uno, la Roma, si è tolto di mezzo quasi subito e ha disputato costantemente un campionato fuori dai giochi di vertice. L'altro, il Milan, secondo me ha accentuato strada facendo la sua vocazione alla tecnica pura, dimenticando quelli che sono un po' gli indispensabili equilibri tattici del nostro campionato, mentre la terza, la Juventus, io credo abbia fatto quanto rientrava nelle sue corde e nelle potenzialità del suo organico. Era in sostanza un campionato che aveva un padrone già quasi in partenza e che ha risolto abbastanza in fretta il rebus dello scudetto. E quindi sono Milan e Roma che sono mancate all'appello. Torno ai numeri. Il Milan ha segnato gli stessi gol dell'Inter. Curiosamente, le tre prime arrivate ha segnato praticamente gli stessi gol. 70 li ha fatti l'Inter, 70 il Milan e 69 la Juventus. Quindi un equilibrio addirittura incredibile in attacco. Le differenze difensive sono minime, perché l'Inter ne ha subiti 32 contro i 35 del Milan e i 37 della Juventus. Dunque, a leggere questi numeri non si direbbe che ci sono 10 punti di scarto, no? Vuol dire che ci sono stati risultati molto rotondi e probabilmente inutili da parte, no? Esatto. Sì, credo che questo sottolinei, al di là di tutti i discorsi e più efficacemente di tutti i discorsi, la grande qualità di questa Inter, che non è stata quella di praticare un gioco spettacolare o affascinante, ma quello di raccogliere quasi sempre il massimo, senza spendere tutto, cioè vincendo al pelo le partite, ma vincendone tante. Questo è abbastanza significativo che arrivi con tutti i numeri, perché che abbia gli stessi numeri in attacco delle sue rivali, tutto sommato, rientra nella norma, nell'espressione tecnica, insomma, di queste squadre, ma credo che la differenza l'abbia fatta in difesa. Lì la differenza viene sottolineata soltanto minimamente dai numeri. Poi è chiaro che l'Inter alla fine ha un pochino allentato a scudetto raggiunto, e ad esempio i grossi passivi raccolti nell'ultima con l'Atalanta hanno sicuramente spostato gli stessi due gol di Cagliari, cioè certo. ha incassato molto nelle ultime due giornate, sì, è vero. A scudetto morto. È verissimo, è verissimo. E d'altra parte il discorso che facevi sulla Roma, proprio nei numeri trova conforto, che è poi motivo di sconforto invece per la Roma. Perché? Perché la Roma ha incassato 61 gol. Allora, per trovare 61 gol incassati bisogna andare in fondo alla classifica e trovare appunto i 61 subiti dal Torino, che va in B, i 62 della Regina, che va in B, i 67 del Lecce, che va in B, e i 62 del Bologna, che si è salvato come all'ultimo istante. Cioè una squadra come la Roma che incassa 62 gol è la fine del mondo, secondo me. Ma infatti i progressi delle ultime stagioni della Roma, che è sempre stata una squadra molto brillante come costruzione di gioco, anche come finalizzazione, dipendevano molto da un rendimento sicuramente accettabile del reparto arretrato, che è completamente mancato quest'anno, in parte per infortuni anche contemporanei di giocatori fondamentali, in parte forse per una copertura meno attenta da parte del centrocampo, che è stato un po' l'altro reparto che ha lasciato a desiderare, dove De Rossi si è trovato spesso molto solo, ecco. Credo che anche qui i numeri dicono la verità, spesso la dicono. Poi il discorso che mi sembra interessante è che a un certo momento, e lo facevo prima parlando del Milan, il campionato italiano, che a me sembra sempre un po' più lontano dall'Europa ogni anno già, che passa, già. Ha chiaramente dato la priorità e ha esaltato ancora una volta la superiorità del calcio atletico, dei famosi chili, centimetri, per cui l'Inter, che è una squadra di granatieri, sicuramente fa la differenza. Trasportato in Europa questo calcio non paga più, tanto è vero che sia la Spagna negli europei sia il Barcellona ha vinto con due mezze ali che non hanno né chili né centimetri, peseranno 80 kg in due, però sanno giocare molto bene al calcio. Ecco, la realtà europea è questa, di un calcio tecnico, mentre noi siamo ancora prigionieri di un calcio atletico, che forse a livello internazionale ha fatto un po' il suo tempo. E allora andiamo su chi il calcio tecnico ha provato a farlo, secondo me, in questa stagione. Beh, certamente Milan, questo sì, perché appartiene al suo DNA. Era obbligato. Sì, è obbligato, sono le caratteristiche dei giocatori che glielo impongono. Io se dovessi dare dei voti, e li sottopongo a te ovviamente perché i tuoi pesano ben diversamente, io darei in stagione supponiamo che 8 sia il voto di chi vince il campionato, giusto per dare un parametro, allora 8 a questa Inter, io darei 8 anche al Genoa, darei poco meno, forse 7,5 al Cagliari, darei tra il 7,5 e il 7 a Siena e Catania, perché salvarsi con tutto quell'anticipo, giocando anche un calcio interessante, un buon calcio interessante, e sarei più o meno quasi sullo stesso voto anche per il Chievo, per la rimonta che ha sostenuto. Adesso correggimi e tarameli meglio, ma il dato di partenza era questo: se c'è una squadra in Italia che ha fatto della cifra di gioco, dell'agilità, insomma, che ha copiato, ma nel senso migliore del termine, questa filosofia nuova europea, e cioè la tecnica a discapito della fisicità, mi sembra proprio il Cagliari. A me sembra il Cagliari, sicuramente il Genoa, che ha fatto un gioco con tre attaccanti sempre e con un centrocampo molto propositivo e creativo, e l'Udinese, che non a caso è stata la squadra che ha fatto più strade in Europa quest'anno. Certo. Il piazzamento dell'Udinese in campionato risente molto di questo suo impegno europeo, altrimenti io penso che avrebbe concorso sino in fondo per un posto in Champions, se non avesse avuto la distrazione europea, che si è protratta a lungo. anche perché l'Udinese meritoriamente ha fatto molta strada in Europa, proprio per il calcio che gioca, di respiro internazionale, che è un calcio di iniziativa anche in trasferta, che è un calcio con attaccanti, con molti attaccanti, e che poi l'ha danneggiato sul piano interno perché non aveva l'attrezzatura della grande squadra che potesse fare i due fronti con un rendimento uguale, ecco. Però queste per me sono le squadre che giocano un calcio europeo: il Genoa, il Cagliari, l'Udinese, per un po' anche il Palermo, poi si è un po' perso per strada sotto questo profilo. Sono d'accordo come sempre. Sempre in ordine osservazioni, in ordine sparso. Mi pare si sia confermata la tendenza a la tendenza secondo cui si vedono sempre più frequentemente belle o grandi giocate d'attacco e si vedono sempre più disarmanti esitazioni, per non esagerare, difensive, con discrete coproduzioni anche dei portieri. Adesso non voglio arrivare alle disavventure di Fiorillo, il rincazzo della Sampdoria l'ultima partita, ma insomma, portieri così così, ora sicuramente entro un certo limite, ma marcature o comunque insomma, organizzazioni difensive anche ad alto livello abbastanza imbarazzanti, secondo me. Certamente, portieri così così, e lo dimostra la grande difficoltà che noi abbiamo a trovare un erede, ma anche solo un sostituto a Buffon, di livello. E organizzazioni difensive che, nonostante ormai un continuo ricorso a difensori stranieri, perché ormai abbiamo difensori stranieri più che attaccanti stranieri, denunciano proprio la crisi di una scuola che nel passaggio dalla marcatura a uomo, in cui eravamo maestri indiscutibili, a quella zona dove siamo stati evidentemente allievi non troppo attenti, ha accusato veramente una crisi. E noi vediamo che adesso con Cannavaro che ritorna, ma in età veneranda, con Nesta che ha avuto questi infortuni, i grandi difensori latitano, è difficile trovarne, ma trovarne anche pochi. Chiellini è stata l'unica realtà nel settore centrale che io ricordi a buoni livelli. Mancano i difensori, abbiamo una crisi che forse sarà colmata probabilmente nelle ultime generazioni, qualche giocatore interessante si è visto anche a livello di Under 21 eccetera, però indubbiamente, mentre gli attaccanti abbiamo una discreta fioritura, i difensori latitano, e io credo sia stata proprio una conseguenza di questo trapasso tattico che non è stato digerito bene da tutti i nostri tecnici, e quindi anche a livello giovanile probabilmente non ha avuto un addestramento pari alle esigenze. Ho un'impressione anch'io. Continuiamo ovviamente tra poco con Adalberto Bortolotti questa disamina sul campionato appena finito, su qualche tema che ci ha lasciato in eredità, su qualche proiezione verso il futuro, e ne sto leggendo molte sul display, perché è ovvio che l'affare Kakà sta impazzando nei vostri commenti scritti per ora, poi arriverà anche il momento di quelli in voce. Adriano da Treviso, ne leggo uno, campione: ma se il Manchester City offriva 100 milioni, mi può spiegare dov'è l'affare per il Milan? Adriano, Adriano da Treviso e non quell'altro, secondo me questa non dico sia la prova del 9, ma è la prova dell'8 e mezzo di quello che stavo dicendo, e cioè Kakà è il Milan che vuol cedere Kakà. Kakà a suo tempo ha rifiutato il Manchester City, è chiaro che adesso non si sente, per tante ragioni anche professionali, di rifiutare un trasferimento al Real, ma mi pare che l'abbia detto in tutte le salse che se dipendesse da lui dal Milan non si muoverebbe. Ora, ripeto, si tratta di decidere a chi credere, sia lui o diciamo alla società, ciascuno faccia la sua scelta. Parlava con Adalberto Bortolotti di attacchi e di difese, di buoni attaccanti e di una scuola difensiva che si è in buona parte smarrita. Sto leggendo la classifica cannonieri: 25 gol di Ibrahimovic, 24 di Di Vaio e Milito, peraltro Di Vaio e Milito con molti rigori. I 19 di Girardino netti, senza rigori, pesano almeno altrettanto. Le 16 reti di Kakà col Milan devono tener conto di 7 rigori e le 15 di Pato, dunque hanno un'incidenza superiore, se vogliamo. Mi viene sempre in mente, Adalberto, quando vedo queste classifiche cannonieri e quando vedo soprattutto i filmati della domenica, quando vedo prendere questi gol spesso e volentieri assurdi, mi viene in mente quanti gol segnerebbero oggi Riva, Boninsegna, Pulici, Savoldi, Bettega e quella generazione che ha giocato nel periodo difensivamente più forte, più organizzato e anche più cinico, direi, del nostro calcio del dopoguerra. Diciamo che Riva aveva Burnik, ecco, come contraltare, insomma, e Burnik non era il solo. Sì, nel senso che ho l'impressione che oggi, no, noi scorriamo sta classifica marcatori, vediamo che continuamente cioè Totti ha raggiunto Boniperti e Del Piero sta scalando, eccetera, eccetera. Mi domando dove sarebbero arrivati, cioè quanti ne avrebbero in più davanti questi che devono rimontare la classifica se allora si fosse giocato questo genere di zona, insomma. Questo è il problema, cioè i grandi attaccanti di un tempo sono stati sicuramente penalizzati da aver incontrato un periodo in cui la marcatura non solo era più assidua, fatta da specialisti più forti, ma anche molto più ruvida, ecco, e quindi la libertà d'azione, il tempo di pensare una conclusione era molto minore, avevi veramente l'avversario addosso, ma in ogni fase di gioco. Adesso i terzini, appena sono in possesso palla, se ne vanno e vanno a appoggiare il gioco, ed è giusto così, probabilmente in questa visione, però l'attaccante altrui se ne dovrebbe a sua volta giovare, e se ne giova segnando, perché mi sembra che siano molti, i grandi cannonieri ci sono sempre stati, quelli in doppia cifra, cioè, ma sono molti i cannonieri intorno ai 15 gol, insomma, che era una cifra d'eccellenza sino a poco tempo fa, ecco. Sono detto Pato, giustamente Pato ha avuto un'annata con momenti esaltanti e lunghe pause e anche esclusioni, poi lo troviamo alla fine con un bilancio che un tempo sfiorava il capocannonierato, è vero, è verissimo. Parlo a nome, penso, di tanti, scrive un ascoltatore, tolga spazio a noi e ai nostri interventi e lo dia ad Alberto Bortolotti. Beh, insomma, è esattamente quello. Facciamo il contrario. Beh, comunque, quello è quello che sto facendo. In compenso, ci sono molti, no, ma sono alcuni ascoltatori fiorentini che ci contestano ad Alberto, perché, non so, te ne leggo uno, la Viola. Da 4 anni arriva in zona Champions, considerando la differenza di budget con le altre squadre di fenomeni, trovo che o non capite di calcio o peggio ancora siete in malafede, complimenti vivissimi. Questo è il più. Io pensavo che ha fatto molti nomi di squadre e non la Fiorentina, ma spiego anche perché, mi aspettavo di più quest'anno. Anch'io. Cioè, non c'è stato il salto, il quarto posto ottenuto con molta lotta, e teniamo conto che si era defilata subito una concorrente come la Roma, è in fondo quello che la Fiorentina aveva fatto lo scorso anno. Io mi aspettavo il salto dal piazzamento di prestigio a competere per qualcosa di più alto, non dico conquistarlo, ma competere, e questo non c'è stato. Quindi a me ha lasciato un po' deluso in questo senso, fermo restando che, per carità, arrivare quarti per 2 anni consecutivi con budget sicuramente inferiore ai primi 3 è un grande merito. Ma, ripeto, sono stato deluso personalmente perché la accreditavo di qualcosina in più. Sottoscrivo e aggiungo un piccolo carico: se c'era una squadra che meritava di arrivare ai quarti era Genoa e non la Fiorentina, sì. A parer mio. Anche mio. Ecco, siamo i due, così almeno i fiorentini possono scatenarsi ulteriormente se lo ritengono opportuno. Sì, oltretutto è stato deciso da un confronto diretto in cui la Fiorentina è stata bravissima a rimontare negli ultimi secondi, certo. Fino al 3-3 mi pare, ma a un certo punto la partita era, sembrava saldissimamente in mano al Genoa, ecco, lo ha un po' buttato via il quarto posto il Genoa in questo confronto diretto pareggiato anziché vinto come pareva inevitabile fino a 2 minuti dal termine. Verissimo. Non dimenticate, scrive un altro ascoltatore a proposito di attaccanti, che oggi a quelli che segnano di più arrivano anche quelle 2 o 3 autoreti all'anno che oggi vengono conteggiati come gol, ed è vero anche questo. Che prima venivano tolte addirittura con delle ricerche proprio al capello, cioè la deviazione assolutamente ininfluente, che però veniva subito catalogato da autogol, sì, certo. Questo è vero. Però se parliamo di gol, io mi sento di spezzare una lancia a favore di Marco Di Vaio, perché sì, a differenza degli altri, Di Vaio ha fatto una cosa che per me è sensazionale, lo sarebbe stato in qualsiasi tempo, cioè ha fatto 24 gol in una squadra che ne ha segnati 43. Questo sì, vuol dire aver fatto quasi il 60% dei gol della squadra. Ti trovo preparato, in effetti. È assolutamente clamorosa. È vero, non mi ha colpito. 43 gol in tutto il Bologna. 24 di Vaio. E quindi quasi il 60% l'ha firmato. Allora, Di Vaio. Toglieli pure i 6 rigori, mi pare, sì, che pure in gran parte si è procurato, fra l'altro, certo, e che poi ha tutti trasformato, quindi questo è un merito. Però resta comunque un giocatore che ha segnato più di tutto il resto della squadra. Ecco. Sì, effettivamente questo non è male. Il resto sì, della squadra non era un granché, e questo però posso dire per esperienza diretta, sì, perché penso l'ho visto. Me l'immagino. Però non toglie il lato, se non altro statistico, a parte il fatto che gran parte dei gol di Di Vaio sono stati molto belli. Ecco. Sì, non c'è dubbio, anche proprio da un punto di vista estetico, da un punto di vista di perentorietà di esecuzione. È bello che questo ragazzo abbia trovato la sua seconda giovinezza in un'annata così difficile, tra l'altro, e che il Bologna sia riuscito a evitare la sorte che toccò a un ex capocannoniere addirittura. Di Vaio poi è stato battuto in volata da quel tacco di Ibrahimovic all'ultimo minuto, insomma a 10 minuti dalla fine. Ma c'era un precedente che credo risalga al 96 di un capocannoniere assoluto di Serie A che fu Tovaglieri del Bari, nonostante la retrocessione della squadra. Di Vaio e il Bologna sono andati molto vicini. Protti nel Bari. Protti, non Tovaglieri, no, Protti. Domando Protti, scusa. Vince la classifica Protti, Cannonieri, e in un Bari retrocesso. Protti, esatto, chiedo scusa. Mi confondevo con quell'altro Protti, che a sua volta era un bel attaccante di razza, ma sì, Protti sì, vinse e il Bologna quest'anno ci è andato vicino. Io concluderei questa chiacchierata con una proiezione tua per quel che si può dare adesso sul futuro delle squadre. Cioè, molte cose sono già state fatte, non solo da parte delle grandi, faccio per dire Del Neri dopo 2 anni magnifici a Bergamo, e anche l'Atalanta, forse una citazione da 7 la meritava, adesso che ci penso. Il gioco ne ha fatto tanto. Ecco, anche per la qualità del gioco. Ma infatti la qualità di questo campionato va ricercata più in squadre fuori dal giro, esatto, scudetto. Ecco. Esatto. Questa forse è stata la sua peculiarità. E allora a maggior ragione ci sta quest'ultima domanda, e cioè facciamola soltanto sulle grandi, la proiezione, per queste prime mosse che si possono vedere. La Juventus ha preso Diego, sta probabilmente trattando D'Agostino. Se è vero e si realizzerà, probabilmente non dico che cadrà nell'eccesso opposto rispetto a quest'anno, che era tutto muscolo e poca tecnica in mezzo al campo, però potrebbe essere. Il Milan a me è piaciuto moltissimo quest'anno, è stato uno dei giocatori da Oscar, insomma. D'Agostino intendi? Sì, D'Agostino. Certo. Quindi la Juve sta trasformandosi in senso tecnico. Il Milan è un punto interrogativo perché, insomma, Kakà è praticamente andato e bisogna vedere cosa ne faranno. Un punto interrogativo diventerà l'Inter, se come pare anche Ibrahimovic prima o poi si vidimerà da solo il passaporto. Riusciremo a vedere da parte delle grandi un calcio più, insomma, di maggior spessore a parer tuo o no? Ma io credo che sia obbligatorio, se è vero che in particolare l'Inter punta all'Europa, perché con il gioco di quest'anno puoi vincere anche 10 scudetti in fila, ma in Europa fai poca strada. Quindi credo che cambierà per forza in senso positivo. Però visto che il Milan perde Kakà, cioè il suo giocatore largamente più forte, l'Inter rischia di perdere Ibrahimovic, che è addirittura un giocatore imprescindibile, si dovrebbe dire che delle tre sicuramente migliorerà la Juventus. È impressionante. Sperando che l'allenatore che arriva, che io non so ancora chi sarà, sappia trarre il meglio da un materiale che si annuncia notevole, ecco. Non c'è dubbio. Adalberto, grazie. Prossimo appuntamento direi per la Confederation Cup, no? Sì. In un'altra chiave. Confederation Cup, che è una manifestazione folcloristica però interessante. A un anno dal mondiale è interessante comunque. Per... Sì, non tutti la giocheranno magari per vincere spasmodicamente, però c'ha una bella partecipazione. Sì, sì, ed è un buon test. Italia, Spagna, Brasile. Ecco, esatto. Un buon test per vedere se l'Italia potrà provare a riconfermarsi, e sappiamo che qualche dubbio c'è, abbondante. È più di uno, e se magari la Spagna può davvero essere la favorita o una delle favorite per il mondiale prossimo, cosa assai probabile. Adalberto, grazie. D'accordo, grazie a te, grazie. A risentirti. C'è una brutta notizia che arriva dalle agenzie: è morto Nardino Previti, che fu il direttore sportivo del secondo scudetto della Roma, aveva 74 anni, è morto stamane all'ospedale di Reggio Emilia, era stato consulente di mercato per molte società, la Roma, la Fiorentina, il Mantova, il Brescia, la Reggiana, il Venezia, il Verona. Adesso spazio ai vostri interventi per cominciare, poi abbiamo delle voci da ascoltare. Valentino ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Grazie Gigi che mi avete richiamato. Due cose molto veloci. Prima, questa vendita di Kakà mi sta deludendo la società Milan, che credo che con i soldi che Kakà prende al Real Madrid, una società sana come il Milan le poteva anche lei pagare. E purtroppo che magari ci sia qualcos'altro sotto, che la società Milan non abbia più soldi. Allora quello ha ragione la società Milan. L'anno scorso ho comprato Ronaldinho, Sieva, per fare una grande squadra, e quest'anno vende il migliore elemento, non gli ha fatto fare tanti di quei punti, se no sarebbe come meno piuttosto di 10 punti, ne avrebbe come meno 20 indietro. E l'altra sarebbe quella di Ibrahimovic, che io, presidente Moratti, se realmente ci fosse una società che voleva Ibrahimovic, a quest'ora l'avrebbero già richiesto. Ma dato che questa società non c'è, perché prende un sacco di soldi all'Inter, la pianti. Se no, la società Inter per denunciare Ibrahimovic come danneggiamento alla società, al minimo di stipendio, per il tribunale, finito, basta. Sì, finito, basta al cinema, Valentina. Poi in realtà le cose vanno un po' diversamente. Comunque non è vero che nessuno vuole Ibrahimovic, per esempio Guardiola ha appena fatto sapere, o comunque la stampa di Barcellona sta facendo sapere, che Guardiola, come regalo per i 3 trofei vinti quest'anno, ha chiesto al presidente Laporta proprio Ibrahimovic come prima scelta di rafforzamento, e lo capisco perché credo che sarebbe proprio il giocatore in teoria. Poi la prova del campo poi si diverte sempre, o si diverte spesso, a smentire queste teorie, ma insomma, in teoria, vedere Ibrahimovic come pivot, no? con i suoi piedi a sua volta in mezzo a Iniesta, Xavi e Messi, dovrebbe essere un discreto spettacolino, insomma, così da vedere. Francesco ha chiamato da Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Niente, io ho visto le ultime due partite che l'allenatore di Ferrara, e praticamente non è cambiato assolutamente nulla. Anche lui domenica solo 1-0 per la Juve, ha tolto un centrocampista e ha fatto entrare un altro centravanti. Fortunatamente è venuto subito il secondo gol, se no altrimenti si va in pareggio subito. Pertanto credo che lì ancora questi vecchi così giocatori, questi la vecchia guardia, chiamiamo così, ancora in mano alla società. Poi le chiedo a lei se è lecito chiedere a Ibra, che ha giocato negli ultimi campionati, due con la Juve e due con l'Inter, un'analisi un po' di come si è sentito più protetto prima o dopo, perché ho visto ultimamente che ha avuto delle situazioni abbastanza favorevoli. Tutto qui. La ringrazio. Ne ha giocate tre di stagioni nell'Inter, non solo due. A Ibrahimovic non si può chiedere nulla, nel senso che se c'è un giocatore che non rilascia interviste, ma proprio perché proprio non gliene può fregare di meno, nel senso che in questo Ibrahimovic mi è simpatico, nel senso che lo so che, detto da uno che in teoria dovrebbe intervistarli questi personaggi, sembra autolesionismo, ma visto che oggi tutti parlano, tutti ci stanno, che è questo che invece proprio non ne vuole sentir parlare, perché non gli interessa proprio, e a lui piace parlare in campo e basta. A me non dispiace come genere, lo trovo anticonformista in questo e non guasta mai. Quanto a Ferrara, beh, insomma, tenga conto che secondo la stampa di Torino la Juve lo ha scelto ormai in maniera definitiva. Poi L'ultima parola, insomma, il titolo di oggi è Ferrara addio agli azzurri, perché come sapete è anche vice di Lippi. La Juventus ha scelto lui, ma l'ultima parola è a Ciro: se si sente pronto è sua la panchina. Questo è il titolo di stamane della Stampa, che insomma, se parliamo di Juventus, non solo di Juventus ma in particolare di Juventus, qualche discreta informazione di prima mano nella fattispecie Marco Ansaldo ce l'ha. Tocca a Luigi dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io la chiamo da... l'ho già chiamata diverse volte. Volevo esternare la mia delusione per quello facendo Milan con Kakà. Per me il signor Berlusconi se ne accorgerà lunedì i voti che perderà politicamente. Qui nel Sarronese tanti non gli daranno il voto. È questo che volevo dirle. Grazie. Per Kakà, dice lei. Ma insomma, io credo che, cioè, proprio volendo e cercando con l'anternino, ci potrebbero anche essere eventualmente altri motivi, per lui come per chiunque altro. Ma è indubbio che qualcuno sta sostenendo questo. Io personalmente non lo credo, non, soprattutto mi piacerebbe credere che non è così, insomma, che non può essere un acquisto o una cessione a determinare una scelta politica, soprattutto se proiettata verso l'Europa, no? Se proiettata verso un Parlamento europeo. Però è anche vero che il degrado è tale che può darsi che anche questo succeda. Da Fermo ha chiamato Ugo, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio per l'opportunità. Volevo dissentire un po' da questo discorso specifico che alcuni hanno manifestato. Cioè, il Milan credo che è una società di tutto rispetto. Io sono un tifoso milanista, abbiamo avuto giocatori importanti, Baresi, Costa Curta, Ivan Bassa, Gullit. Vabbè, anche Nord, Lidl, Schiaffino. Sì, eh? Sì, ma parliamo degli ultimi anni dove si parla all'era Berlusconi. Berlusconi è stato un antesignano e è un po' l'archetipo di come si gestisce, non dico una società, ma la società. Quindi trovato capello dal cilindro. Sacchi, anche se con un minimo di esperienza, comunque l'ha valorizzato, e io credo che le scelte del Milan vanno valutate in funzione alle situazioni. Parliamo di situazioni economiche, che le società si indebitano. Se sta valutando l'opportunità di cedere Kakà, e motivazioni ce ne stanno. Ma non c'è dubbio, Ugo. Infatti credo che questo una buona parte della tifoseria l'abbia capito, e lei l'ha illustrato benissimo. La domanda che ci si pone è questa: perché non lo dice? Perché dice che è Kakà che vuole andare via? Questo è un altro discorso. Fa parte di un meccanismo, secondo me, che è un po' ciò che l'ascoltatore che mi ha preceduto ha evidenziato. Cioè, la politica può anche essere influenzabile e influenzata dagli aspetti sportivi. Però io parto da un presupposto che il calcio e la politica fanno diventare bugiardi tante persone. Cioè, quello che si dice in questo momento, che non lo sarebbero magari di natura, no? Esatto, lontanissimi dall'essere così, ma che invece, causa il calcio e la politica, rischiano addirittura di cadere ogni tanto nella menzogna. E potrebbe essere una teoria interessante questa, Ugo. Grazie. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Forse arrivo un po' tardi, comunque volevo... Da tifoso milanista, io non sono fondamentalmente contrario alla cessione dei pezzi pregiati, perché mi vengono in mente tante squadre che hanno ceduto i pezzi pregiati e poi comunque hanno continuato, addirittura hanno vinto più di prima. Però l'impressione mia, di tanti altri tifosi, che dietro ci voglia qualcuno che faccia dei progetti, dei programmi, anche se il progetto è un termine un po' abusato ultimamente. Invece l'impressione che dà ai tifosi la società Milan è quella negli ultimi anni di navigare un po' a vista, oppure di avere più in mente una certa forma di spettacolo, di pubblicità, più che la costruzione di una squadra di calcio, insomma. Cioè, voglio dire, si può sbagliare nella campagna acquisti cercando di puntare sui giocatori nuovi, su gente in ascesa, sui giovani, ma sbagliare così regolarmente puntando su stelle, stellone più o meno passate. Ma Paolo, sì. Senza prospettive per il futuro, almeno è la mia impressione. Oddio, magari mi sbaglio, ecco. Cioè, no, dando l'impressione di navigare a vista, ecco, senza... Sì, non c'è una, come sempre la ragione non sta da una parte sola, non c'è un taglio netto con cui dividere la ragione e il torto. Qualche motivo di perplessità? Magari sì. Cioè, io credo che se il Milan ha problemi seri di bilancio, di rientro per esigenze societarie, diciamo della controllante, va tutto bene, ci sta tutto, e si arriva a cedere il pezzo pregiato, a cedere la bandiera del Milan. Alberto Costa stamane sul Corriere ricorda che sottolinea che sarebbe la prima volta in assoluto che questo accade nella storia, perché quando l'unica volta in cui il Milan tentò di cedere la sua bandiera, cioè fu Buticchi che cercò di cedere Gianni Rivera nel 75 scambiandolo con Claudio Sala, il cosiddetto Golden Boy si ribellò, ne venne fuori una specie di colpo di stato morale, invece di andarsene Rivera fu Buticchi a dover fare poi le valigie dopo una guerra intestina non da poco. Ma a parte i precedenti storici, io credo che se questa crisi, questo passaggio a vuoto, questo momento difficile societario c'è, non può essere da ieri. Allora, se non è da ieri, cioè se non è da oggi, e quindi risale come minimo a qualche tempo fa, non riesco a capire perché oggi cedere Kakà dopo aver investito tutto quello che si è investito su, nell'ordine, Ronaldinho, Zambrotta, Shevchenko, e ci metterei anche Beckham, no? con tutto rispetto per gli adoratori di Beckham, perché non so se il totale porterebbe a 68 milioni di euro, ma se ci mettiamo i contratti, gli ingaggi, i premi eccetera, non arriviamo lontanissimi. Io credo che questi quattro giocatori non valgano non valgano né oggi né domani quello che rappresenta per il Milan, ha rappresentato, rappresenta oggi, rappresenterebbe in futuro Kakà per il Milan. Poi sono evidentemente libere opinioni. Franco, chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, io la sento più che volentieri, guardi. Noi ci siamo sentiti diverse volte, ma oggi, guardi, solo sotto l'aspetto Kakà Ibrahimovic ci tengo molto volentieri. Sì. Forse perché io ho fatto l'allenatore e so cosa vuol dire. I giocatori sono i più falsi di questo mondo. Mm-hmm. Guardi, mi creda, io ne ho avuto e ho fatto la Serie D, non sono arrivato ai livelli di A, però le dico sinceramente, sono i più falsi. Perché guardi, Ibrahimovic è una fattispecie, sarà un grandissimo giocatore, avrà mille colpi. Kakà a me dà questo aspetto di essere meno appariscente sotto l'aspetto, non so come fa Ibrahimovic, ma in effetti questo fa i fatti, tutti gli anni chiede aumenti. Ma poi lasciamoli andare, guardi, in Italia il calcio ha sempre vissuto, è sempre stato grande. Abbiamo avuto i Kakà, abbiamo avuto tanti di quei giocatori, ne arriveranno altri. Ma non c'è dubbio, Sono convinto di una roba, che ne trarremo ancora vantaggio, anche perché il Milan, sicuramente, io sono anche milanista, sì, mi creda, è una società dove gioca la base del gioco del calcio, non l'individualità di persona. Pertanto, va bene, grazie. Io sono convinto che Berlusconi farà ancora un grande Milan, guardi. Sì, certo. Milan lascia andare Kakà perché comprerà Cristiano Ronaldo, scrive un ascoltatore. Subito sotto un altro dice: spero che il Milan non si lasci sfuggire un'occasione irripetibile per la politica di questi anni, cioè portare a casa Nedved. Sentiamo Riccardo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, signor. Pronto? Dica. Buongiorno. Io mi domandavo questo, signor Garanzini, ha un senso aver rifiutato un'offerta da oltre 100 milioni da parte del Manchester City per ricavarne 65 dal Real, se è vero che lo vendono al Real, soprattutto nell'ottica anche del fatto che il Real sarà un concorrente del Milan l'anno prossimo in Champions League. Cioè perdo 40 milioni... Mi scusi, sì, la domanda gli regge, perché l'ho già fatta prima, evidentemente lei non era collegato. Questa non le sembra la prova provata che non è Kakà? Cioè, non le sembra la prova provata che il Milan non ha rifiutato i 100 milioni del Manchester City? È Kakà che non ha voluto andare a Manchester City. È verissimo. E invece magari il Real ci può andare. Sì, ne farebbe a meno anche adesso. Sono d'accordo anch'io, c'è ragione lei, però non, da milanista non mi va giù, ecco, tutto lì. Ah beh, questo lo posso capire. D'altra parte, sa, qua nella classifica lei ci sono ascoltatori che scrivono Cacà batte il pugno sul cuore solo perché in campo non si può portare il portafoglio. Io non prima abbiamo sentito un ascoltatore scettico dicendo che i giocatori sono i più bugiardi del mondo, veniva citato anche Ibrahimovic. Ibrahimovic non mi sembra bugiardo, ha appena detto il Barcellona gioca un calcio, ha appena detto, le ultime due frasi sono: non mi vedo con la maglia dello stesso club per tanti anni, questa è una frase di ieri, e la successiva è stata: il Barcellona gioca un calcio fantastico, quello del futuro, quello che si potrebbe giocare nel 2015. Mi sembra che non stia affatto dicendo delle bugie, mi sembra che stia dicendo quello che ha in testa in questo momento. Poi che tre anni fa dicesse che l'Inter è sempre stata la squadra del suo cuore, no, no, non credo potesse stupire più di tanto. Non può stupire questo. Quando era arrivato alla Juve, beh, insomma, squadre come la Juve al mondo non ce n'erano, eccetera eccetera. Però non è l'unico, cioè io ho qua sotto gli occhi appena stampata una frase del 23 gennaio che è una frase del presidente del Milan che dice: Cacà mai al Real. Era appena finito il tormentone di allora, c'era appena stata si era appena affacciato alla finestra Cacà, no? a percuotersi, a flagellarsi la camicia dalla parte del cuore. Lui con la maiuscola, nel senso di presidente, era collegato in diretta con Biscardi e aveva appena annunciato che tutto era finito bene perché questo meraviglioso ragazzo non ha voluto assolutamente accettare questo trasferimento, eccetera eccetera, che gli sarebbe sanguinato il cuore, eccetera eccetera. E in questa circostanza aveva aggiunto: Cacà non solo non si muoverà più dal Milan, ma in particolare non andrà mai al Real Madrid. A domanda ha risposto. Vede che nel calcio, non ci si nega nulla, ecco, dal punto di vista della coerenza. Luigi, provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo intervenire in merito proprio anche alla questione di Cacà e volevo semplicemente dire che sono favorevole alla vendita di questo giocatore, che è stata un'assurdità non darlo direttamente a gennaio, perché anche contro la sua volontà io l'avrei già venduto. Ma ci vuole la firma contestuale però, Luigi, negli anni 60, eh? No, però ci hanno provati Luigi, ci hanno provato in tutte le maniere a convincerlo a gennaio, un mese gliel'hanno fatto andare avanti, poi questo la firma non la metteva, hanno dovuto rinunciarci, o no? Esatto, sono d'accordo, però per questo, per far capire a chi giudica l'operato di Berlusconi e della società Milan, criticandolo, giudicare, diciamo, io non do più il voto, cioè proprio speriamo che poi non sia questo a stabilire chi deve governare l'Italia. Ma ci mancherebbe altro. Sarebbe proprio l'ultima cosa proprio che dovrebbe accadere. Certo, però perché i parametri non mancano. Dica. Esattamente. Mm. E poi per far capire che in realtà è Cacà che vuole andare via dal Milan. Adesso facciamola finita su questo tran tran. Berlusconi non lo venderebbe mai. È lui con suo padre che già avevano gli accordi con il Real Madrid. C'è poco da fare. Se a gennaio ci fosse stato il Real Madrid, Cacà giocava già per il Real Madrid. Lei dice. Lei è... Questa è la realtà, purtroppo. Mi dispiace, ma questa è la realtà, purtroppo. E io di un giocatore così, io non lo considero poi neanche una bandiera, detta come l'ha detta. Io credo che sia l'esatto contrario di come la sta raccontando lei, ma proprio l'esatto contrario allo Zenit o al Nadir, scelga lei, cioè proprio dall'altra parte rispetto a come la dice lei. Però sarà invece così. Chi ha parlato ancora stamane con Cacà dal Brasile ha avuto esattamente l'impressione opposta, però avrà ragione lei, cosa vuole che le dica. Fabio ha chiamato da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie, io sono un milanista, sì. E io invece concordo con lei, perché sono convinto al 100% che Cacà in questo momento vorrebbe rimanere al Milan. Il Milan deve assolutamente dare via Cacà, perché è l'unico giocatore che gli può portare dentro i soldi che servono per ripianare quelli che sono i debiti. Però, visto che prima parlavamo di coerenza, io, se non vado errato, un po' di tempo fa ho sentito Platini parlare di che il prossimo anno per giocare la Champions League potevano giocare solo le squadre che avrebbero, diciamo, ripianato i debiti e queste cose qua. Il Milan coerentemente la cosa la vuol fare, la sta facendo, perché allora ad esempio squadre come Barcellona, Manchester e compagnia varia arriveranno a non farlo, perché non credo che squadre di un blasone così importante riusciranno a mettere dentro 700 milioni di euro per i penali da vedere, non ci riusciranno, eppure queste squadre le rivedremo tranquillamente. Ma se parla degli inglesi è diverso, se parla del Barcellona è completamente fuori strada, perché il Barcellona è messo molto ma molto meglio di come sta dicendo lei. Platini questa cosa la vorrebbe fare non dall'oggi al domani, da ieri a oggi la voleva fare. Poi che ci riesca è un altro discorso, perché bisogna scontrarsi con i poteri forti, e Platini ci sta provando in tutte le maniere, ma non sono riforme che si fanno dall'oggi al domani. Mi stavo dimenticando una rubrica importante che tra l'altro oggi è particolarmente significativa, perché è un pezzetto importante di storia del calcio, quello che ci ricorda Nicola Filippone. Sembra ieri. 3 giugno 1971. Il Leeds United si aggiudica l'ultima edizione della Coppa delle Fiere, che nella stagione successiva sarà sostituita dalla Coppa UEFA. Gli inglesi si impongono sulla Juventus di Vic Palek, pareggiando la sfida di ritorno, giocata tra le mura amiche di Elland Road, per 1-1, dopo aver strappato un 2-2 ai bianconeri a Torino. A settembre il Leeds disputerà uno spareggio con il Barcellona, primo club vincitore della Coppa delle Fiere, per stabilire chi avrebbe portato a casa definitivamente il trofeo. I catalani si imporranno per 2-1, sfruttando il vantaggio di giocare al Camp Nou. Ultimi 30 secondi da Firenze. Claudio, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Senta, io non sono un tifoso vero e proprio, ma sicuramente un appassionato di calcio. Quello che vorrei dire è spezzare una lancia, diciamo così, in favore appunto della passione del calcio e tutto. Kakà va via, va al Barcellona, ma la cosa importante è che non... Pronto? Pronto? 30, avevo detto 30 secondi. Mi scusi, il Barcellona ci ha spiazzati un po' tutti, ma soprattutto devo dare la linea in tempo al giornale radio, perché sono giorni di informazione, insomma, come dire, più obbligatoriamente ancora del solito puntuali. Fabio Cantadori in regia, e lo ringrazio Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani.